Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. È ormai un riflesso quasi condizionato. Basta un bip per precipitarsi a controllare lo schermo del nostro smartphone e rispondere a email, messaggi e telefonate. Sempre, anche quando si è alla guida. La distrazione è infatti una delle principali cause di incidenti insieme all'eccesso di velocità. Secondo le ultime statistiche sulla sicurezza stradale, 3 incidenti su 4 sarebbero causati proprio dalla distrazione e soprattutto dall'uso dei cellulari. In tema di sicurezza stradale, però, il bicchiere può considerarsi mezzo pieno. Calano infatti le vittime e i feriti gravi. Sebbene il percorso per raggiungere l'obiettivo europeo di dimezzare le morti sulle strade sia ancora lontano. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, oggi ci occuperemo di sicurezza stradale, un tema che riguarda ovviamente un po' tutti, autotrasportatori ma anche automobilisti e perché no anche motociclisti. Parleremo anche di furti e rapine in danno degli autotrasportatori e un po' in generale del fenomeno del trasporto merci dal punto di vista di chi deve effettuare questi controlli. Faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è il prefetto Roberto Sgalla, che è il direttore delle specialità della polizia. Prefetto Sgalla, cominciamo proprio dalle cause dell'incidentalità. Secondo alcuni ultimi rilevamenti dell'Istat, sono praticamente l'eccesso di velocità, e questo lo conosciamo già molto bene, ma adesso è subentrato un nuovo fattore, che è quello della distrazione, in qualche modo distrazione esasperata dall'uso delle nuove tecnologie. Sì, sicuramente accanto alla velocità, all'uso dell'alcol, all'abuso delle droghe, oggi il tema della distrazione è sicuramente una, se non la principale causa o concausa degli incidenti stradali, cioè che aiuta a determinare in particolar modo la gravità. Distrazione prodotta purtroppo da tantissimi elementi, fondamentalmente da tutti gli oggetti elettronici, gadget, e cioè smartphone, tablet, navigatori, computer, ma ormai in macchina la distrazione ha svariate sfaccettature, dalla donna che si rifà il trucco a inviare SMS, a leggere email, purtroppo anche ad impostare il navigatore. Ancora poche macchine hanno l'obbligo di fermarsi per impostare il navigatore, ha tantissimi elementi distraenti che purtroppo, torno a ripetere, in particolar modo in determinate circostanze, pensiamo velocità alta, dove in pochi secondi si fanno centinaia di metri. Credo che sia purtroppo anche il motivo per cui nel 2015, per la prima volta dopo 13 anni, i dati della mortalità sono tornati a salire. Il 2016 abbiamo già dei dati parziali, ancora non consolidati, che ci confortano, cioè dovremmo avere una riduzione di morti, quindi tornare a decrescere, quindi riprendere una parabola discendente intorno al 4-5%, quindi parliamo di 70-80 morti, che comunque è un dato significativo, perché dietro a ogni vita c'è dolore, c'è purtroppo ogni vita spezzata sulla strada, c'è il dolore, c'è la disperazione, ci sono anche aspetti di carattere economico, quindi sicuramente sarebbe un bel risultato. E provare nei prossimi 3 anni a mantenere o migliorare un trend di questo tipo, quantomeno per scendere, io sarei, come dire, già soddisfatto se nei prossimi 3 anni raggiungessimo un obiettivo di scendere almeno sotto i 3.000 morti. A proposito sempre di incidentalità, c'è tutta una fase, purtroppo a volte anche molto drammatica, che è quello del rilevamento dopo gli incidenti. Ecco, anche su questo fronte adesso ci viene in aiuto la nuova tecnologia con dei sistemi di monitoraggio che accoppiano in qualche modo il rilevamento manuale a quello automatico e digitale. Di che cosa si tratta? La domanda è molto interessante, perché credo che tutti gli ascoltatori o comunque tutti gli automobilisti, indipendentemente se siano stati soggetti attivi passivi di un incidente, hanno visto nella loro vita la stradale rilevare un incidente, e la stradale rilevava l'incidente da oltre 50 anni, anzi oserei dire dalla nascita, tant'è che noi stanno celebriamo i 70 anni, con due strumenti molto rudimentali, poco tecnologici, una cordella metrica e un pezzettino di gesso per segnare le misure. Purtroppo la tecnologia negli anni non era stata in grado di mettere a disposizione uno strumento che potesse essere più efficace, più celere, più sicuro, con tempi anche di blocco delle strade molto più, come dire, contenuto. I pochissimi mezzi che sono stati, strumenti tecnologici che sono stati ideati, abbiamo visto che non, assolutamente non corrispondevano a queste caratteristiche. Finalmente, grazie proprio, come dire, a un rapporto pubblico-privato tra un'azienda e noi, siamo arrivati a mettere a fattor comune, quindi appunto le competenze, le conoscenze, ed è nato questo strumento, Top Cash. Uno strumento semplice nella sua concezione, perché è basato su un sistema di GPS, molto facile da utilizzare, basta un operatore, e quindi è importante, perché questo permette all'altro operatore, la pattuglia binaria, all'altro operatore di fare, di mettere in sicurezza l'area interessata all'incidente. È molto precisa, per cui mentre la cordella poteva, come dire, sbagliare di qualche centimetro, il GPS non sbaglia nemmeno di un millimetro, permette una celerità enorme, per cui chiaramente i tempi, pensi in autostrada, i tempi di blocco, comunque di code, vengono notevolmente ridotti, con un vantaggio di tutti, vantaggio dell'utenza, vantaggio anche economico, vantaggio delle società che gestiscono le concessionarie. Sempre a proposito di autotrasporto, c'è un'altra ricerca in questo momento in cui sono impegnate sia le forze di polizia sia l'albo degli autotrasportatori, ed è quella sul fenomeno dei furti e delle rapine a danno dei TIR. A Verona abbiamo dato alcuni dati appunto rispetto a questo fenomeno e purtroppo c'è da registrare una recrudescenza di questo fenomeno. Quali sono secondo lei le cause e quali i possibili rimedi? Diciamo che il fenomeno purtroppo negli ultimi tempi ha presentato qualche elemento di incremento. È altrettanto vero che sono stati incrementati anche quelli, i casi in cui abbiamo arrestato gli autori, moltissimi. Noi abbiamo registrato 511 casi, di cui sono stati 300 riguardanti sottrazione di merci e 211 di furto di gasolio, quindi questo per già dalla rilevanza del di questo elemento, il trasporto del gasolio. Ecco, 27 sono solamente le rapine del mezzo, molte delle quali poi vengono ritrovati, perché è chiaro che coloro che fanno questi reati sanno che è più complicato, come dire, riciclare un autotreno articolato, mentre è molto più facile riciclare certi merci che loro, come dire, sono molto appetibili, materiale elettronico, farmaceutica, un certo tipo di alimentari, quindi sicuramente c'è più facilità di riciclaggio. Dicevo, siamo particolarmente, come dire, fiduciosi, perché molti di questi reati sono stati scoperti. Che cosa fare? Io credo che anche dietro la spinta del mondo dell'autotrasporto, quindi raccogliendo una sollecitazione del mondo dell'autotrasporto, l'idea di aver costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un osservatorio proprio contro i furti e le rapine di tir, di mezzi pesanti, sia una prima risposta, perché questo osservatorio ci darà la possibilità di fare un'analisi, un monitoraggio, di proporre alcune idee, sia di carattere normativo, di modifiche di carattere normativo, sia di carattere organizzativo. È stato fatto un primo lavoro, appunto individuando le aree di maggiore interesse dove purtroppo sono avvenuti maggiori reati. Si sta lavorando, l'ANIA sta costruendo un'app estremamente significativa per poter anche individuare le aree dove poter sostare. Insieme all'albo e insieme appunto ai soggetti che fanno parte dell'osservatorio si stanno mappando tutte le aree sul territorio, perché è evidente che più le rendiamo sicure queste aree e più il camionista, l'autotrasportatore si può fermare in sicurezza sapendo che può recuperare le ore di riposo oppure dormire eccetera con la maggiore tranquillità possibile, perché noi sappiamo che spesso questi reati, anzi il 90%, avvengono quando il veicolo è fermo e che chiaramente c'è più possibilità di intervenire e compiere reati. Quindi io credo che devo dare atto al mondo dell'autotrasporto che anche stimolato questa costituzione dell'osservatorio. Noi abbiamo su questo versante due osservatori molto interessanti, uno per quanto riguarda il furto di rame, non è immediatamente collocato, però spesso il rame è oggetto di trasporto, quindi ha una sua rilevanza anche, e poi questo nuovo osservatorio che ha iniziato a lavorare prima dell'estate, quindi sono qualche mese, appunto sul tema dei furti e delle rapine etiche. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ringraziamo il nostro ospite, il prefetto Roberto Sgala, direttore delle specialità della Polizia. Vi ricordo che l'appuntamento con Container ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli